peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. E bentornati anche per questo nuovo anno a Salpinus, programma di jazz della nostra emittente, che fa il punto su un avvenimento importante che si è manifestato a cavallo tra Natale e Capodanno all'Aquila, il capoluogo dell'Abruzzo. Infatti Aquila Natale in jazz, un'iniziativa nata nel 2019, sospesa per il Covid, oggi ripresa, che agganciandosi al circuito dell'Orvieto Jazz, il Perugia invernale, porta all'Aquila per l'appunto musicisti importanti. Quest'anno tre gli appuntamenti, li abbiamo ascoltati per voi e vediamo di riassumerli un po'. Il primo è con Giovanni Guidi per piano solo. Giovanni Guidi è un pianista tra i più creativi del mondo del jazz italiano e non solo, un pianismo ricco di note, di ghirlande, di note e con una grande capacità di armonizzazione sui temi proposti. Giovanni Guidi appunto ha presentato temi suoi, poi ha anche rielaborato diverse arie famose a mo' di ballad, per esempio ricordiamo Over the Rainbow, una tra le tante, e che in qualche modo ha collegato in un discorso unico, in un recital pianistico direi classico, che ha conquistato la platea. E allora sentiamo il primo brano, anzi un frammento del primo brano, proprio da Giovanni Guidi, piano solo. Thank you. E questo era un frammento per l'appunto del pianismo di Giovanni Guidi, che ha aperto il 28 dicembre nello splendido auditorium che Renzo Piano ha costruito per l'Aquila dopo il terremoto, ha aperto questa Aquila in gesta natale. Il secondo appuntamento, la sera successiva, era tutt'altra cosa, perché questo festival ci ha presentato tre volti molto diversi del fare musica. Era un progetto, protagonista Bill Frisell, che non ha evidentemente bisogno di presentazioni, che doveva essere in formazione in trio con Thomas Morgan al contrabbasso e Rudy Royston alla batteria, ma Rudy Royston è stato fermato in America per il solito motivo di Covid, e quindi era un duo, ma non solo, perché era accompagnato in questo progetto nella musica di Bill Frisell dall'Umbria Jazz Orchestra, quindi una musica in qualche modo molto evocativa, con elementi spunti quasi da soundtrack, dove evidentemente ha primeggiato la chitarra di Bill Frisell, benissimo accompagnata dal basso di Thomas Morgan. Un set anche non facile, ma che il pubblico ha colto assai volentieri nel suo svilupparsi, e che si è concluso con nel bis un We Shall Overcome in versione direi quasi ademiana, con un grande largo, molto disteso, molto aperto, che ha entusiasmato il pubblico, e quindi anche questa serata è finita tra gli applausi. Questo è appunto l'incipit del progetto di Bill Frisell con l'Umbria Orchestra. Thank you. Questo per l'appunto era Bill Frisell in uno dei suoi mille volti musicali che ha presentato questo set nella seconda serata dell'Aquila in Jazz a Natale, che in qualche modo è stato protagonista tra Natale e Capodanno. L'ultima serata, il 30, è affidato a Francesco Berzati il suo Tinissimo Quartet, una vera e propria festa musicale per un gruppo che da 15 anni, con Zeno De Rossi alla batteria, Danilo Gallo al basso elettrico, Giovanni Falzone alla tromba e lo stesso Berzati ai fiati, da 15 anni in qualche modo tiene alta la bandiera di un jazz italiano, Tinissima, perché il primo progetto fu dedicato a Tina Modotti, poi ricordiamo Monkey Roll, appunto questa versione dei temi monchiani rivissuti in chiave funky, e quindi un Malcolm X, un altro Woody Guthrie, insomma progetti sempre molto impegnati, quest'ultimo invece apparentemente molto più così leggero, dedicato alla popea musicale di Zorro. Poi in realtà anche sotto sotto vai a scavare, trovi sempre la battaglia dei diseredati contro i potenti, che è uno dei temi portanti così nel messaggio di questo gruppo. Ma al di là del messaggio, quella che viene presentata è una musica davvero in festa, con dei solisti notevolissimi, oltre allo stesso Berzati che si conferma uno dei migliori sax e clarinettisti italiani, un ottimo Falzone che sta crescendo direi di passo in passo, Zeno De Rossi puntualissimo nel suo drumming che in qualche modo crea un'unità di suo e l'ottimo Danilo Gallo, che è davvero la colonna sonora, la colonna portante del tiro di questo gruppo. I brani appunto erano dedicati ai vari personaggi che hanno costellato l'epopea cinematografica di Zorro, da Bernardo, il servitore muto ma non sordo, alla bella di Zorro, al cavallo che quando fischi arriva, insomma, e le musiche di festa di questa matrice quasi messicana, perché siamo in California, quello stato che gli Studi d'America ha rubato al Messico. E allora ascoltiamo appunto un passaggio di questa musica in festa del Berzati Tinissima. seconda parte di Salpinus che si volge indietro per affrontare l'anno nuovo e guarda un grande personaggio, anzi una grande coppia, ovvero sia la batteria Max Roach al canto Abby Lincoln, che in qualche modo hanno segnato la fine degli anni 50 e gli anni 60 in maniera davvero incredibile, con delle perle offerteci appunto in questa visione di Max Roach di questa musica impegnata sia nella musica che nel sociale. Cominciamo con riascoltare il duo Max Roach alla batteria e Abby Lincoln alla voce in un brano registrato ad Oslo nel 1968 con una formazione che vede anche Steve Lacy al sax soprano, un grandissimo di questo strumento, un grande maestro, Red Mitchell al basso e Steve Coon al pianoforte. Il brano è Malindi, una località del Kenya che abbiamo conosciuto, ahimè, per le scorribande craxiane o berlusconiane, ma che in realtà negli anni 60 era un riferimento della grande madre nera. Malindi con Max Roach alla batteria e Abby Lincoln alla voce. Put that music book away. What's the use to keep on trying if you're gonna practice until you pray? You can't start no notes of flying like the ones in Ransom Ring. From the kitchen to the big woods when Malindi sings. Cause you ain't got the natural organs or to make the sound come right. And you ain't got the turns and the twists for to make it sweet tight. I tell you one thing now, Miss Lucy, and I'm telling you the truth. When it comes to real right singing, it ain't no easy thing to do. She just spread her mouth and I holler, I'll take freedom and see you here. Trembling fingers, steps and voices, timid like a drawing there. Then she turns to rock of ages, then flew to the cross she claims. And if I can tell the something, when Malindi sings, ain't you never heard Malindi? A blessed soul sing on the top. Look here, you must be joking, honey. Well, you don't know just what you lost. You ought to hear that gal a wobbling, rubbing blocks and all the things. Hush their mouths and hide their faces when Malindi sings. Oh, the fiddling man, stop his fiddling. Hey, his fiddle on the shelf. Mockingbirds with China whistles, cause he just so shames himself. Folks are playing on the banjo, chop their fingers on the string. Let this don't forget to move them when Malindi sings. Cause it's easy enough for folks to holler, looking at the lines and the dots, when there ain't no one can sense it as the tune comes in his spot. But for real melodious music, that just strikes your heart and cling. Just you stand and listen with me while they lazy sing. My Lindy, my Lindy, my Lindy, my Lindy, my Lindy. Malindi, appunto, 1968, Oslo, capitale norvegese, con questa formazione che vedeva, oltre a Bill Lincoln e Max Roach, rispettivamente voce e batteria, il grande Steve Lacy al sax soprano. Facciamo un salto di 4 anni indietro, andiamo invece a Parigi, nel 1964, ancora Bill Lincoln alla voce, Max Roach alla batteria, ma troviamo Clifford Jordan al sax tenore, Colin Perkins al pianoforte, Eddie Ken al contrabbasso, in questo Longest One You Hear. So long I've been needing your love, hear me pleading, love, my heart is bleeding. Take me back where I belong. I know folks are saying from you I've been straying, but still I keep praying. Take me back where I belong. Too long I've been waiting. Love, I'm agitating. Take me back where I you see. hesitating too long. I've been waiting, love. I'm agitating. Take me back where I belong. Stessa occasione, sempre a Parigi, siamo sempre nel 1964, sempre Max Roach alla batteria e Bill Lincoln alla voce, Clifford Jordan al tenore, Colger Perkins al piano e Ken al basso, questa volta nella celeberrima Love for Sale, che nell'interpretazione di Bill Lincoln diventa davvero un grido straziante. Ascoltiamo. Continuando in questa carrellata sulla collaborazione incredibile tra Max Roach e Bill Ingold, veniamo a un'orchestra più nutrita di musicisti, dove alla batteria e alla voce si accompagnano Leonard Spahn alla chitarra, Stanley Tarrantine al tenore, Kenny Dorman e Tommy Tarrantine alle trombe, Julian Priester al trombone, Phil Wright, Rinton Kelly e Cedar Walton al pianoforte, due pianoforti, dunque Bobby Buswell al basso, sia elettrico che acustico. Sentiamo un brano famosissimo di Mongo Santa Maria, interpretato appunto da questa formazione, il brano più volte ascoltato anche nelle arie alla Coltrane, questa volta è con Max Roach e Bill Ingold nell'Afro Blu. I hear a hand stroke on a drum, shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Elegant boy, beautiful girl, dancing for joy, delicate whirl, shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Two young lovers face to face with undulating grace, they gently sway, then slip away to some secluded place. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Whispering trees echo their sighs, passionate pleas, tender replies, shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Lovers in flight, upward they glide, burst at the height, slowly subside, shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. And my slumbering fantasy assumes reality, until it seems it's not a dream, the two are you and me. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Questa trasmissione, dedicata nella sua seconda parte all'incontro tra Max Roach e Bill Ingold, si chiude con due celeberrime ballad. La prima, la mitica lintoniana Come Sunday, dove al sax di Johnny Hodges sostituisce la voce, vellutata in questo caso, di Bill Ingold, e poi Softly as in a Smiling Sunrise, anche questo un brano tantissime volte frequentato e qui ripresentato con la stessa formazione precedente, con questo 1-2 di canzoni così malinconiche, molto romantiche. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a sabato prossimo. Ciao a tutti. Lord, Lord of love, God Almighty, God above. God above. For the passions that thrill love